24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paolo Piacenza. Questa nuova edizione di 24 ore in Europa resta in primo piano la battaglia finale in Libia con la ricerca di Gheddafi, ma soprattutto con le mosse dei governi stranieri, quelli europei in testa, per garantire il ritorno alla normalità e la pacificazione. Faremo anche il punto sulle borse, sulle polemiche in arrivo dalla Germania per l'acquisto di bond da parte della BCE, parleremo di imposte sui consumi nel vecchio continente, di disoccupazione, di un blackout che ha colpito Parigi e di una nuova sigaretta antincendio. Partiamo dunque con gli aggiornamenti sulla Libia. Alla fine del terzo giorno dalla conquista di Tripoli si cerca ancora Gheddafi. La Casa Bianca non esclude che sia ancora nel paese. Intanto sono stati liberati i giornalisti occidentali fermati nel Rixos Hotel di Tripoli dai lealisti. Ma l'attenzione si sta spostando sul dopo conflitto. In prima linea c'è la Francia, che ha promosso l'attacco contro il regime. Il presidente Sarkozy ha incontrato il primo ministro del Consiglio Nazionale Transitorio della Libia, Mahmoud Jibril, proprio a Parigi. E proprio da Parigi Jibril ha voluto iniziare il suo tour nelle capitali europee. Jibril e Sarkozy hanno fatto un annuncio. Il presidente francese Nicolas Sarkozy annuncia che il 1 settembre si terrà a Parigi una conferenza internazionale per la ricostruzione della Libia. La conferenza, dice Sarkozy, è convocata in pieno accordo con il premier britannico David Cameron. Mentre la comunità internazionale fa la gara per riconoscere il Consiglio Nazionale di Transizione Libico, le truppe leali a Gheddafi cominciano una sorta di ritirata. La sensazione che si sia vicini alla resa arriva anche tramite un'email giunta a un giornalista della CNN, nella quale il figlio di Muammar Gheddafi, Saadi, dichiara di volere negoziare il cessate il fuoco per evitare ulteriori spargimenti di sangue. Il messaggio è ritenuto attendibile. Intanto il Pentagono fa sapere che i siti dove si trovano le armi di distruzione di massa sono stati posti in sicurezza. Di Gheddafi per ora nessuna traccia. Per la Casa Bianca il Raïs sarebbe ancora in Libia. Il Consiglio Nazionale di Transizione Libico ha offerto $1.600.000 per la sua cattura, vivo o morto. Sono stati invece liberati 35 giornalisti occidentali tenuti in ostaggio a Rixos Hotel di Tripoli dalle forze realiste per 4 giorni. Racconta così Matthew Change alla CNN. We have now left the compound of the Rixos Hotel. All of the 36 journalists that were kept inside, essentially against their will. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il ruolo cruciale della Francia nella vicenda libica ha origini politiche, ma anche economiche. La Francia è stato il primo paese, lo scorso 10 marzo, a riconoscere il Consiglio Nazionale di Transizione quale unico rappresentante legittimo della Libia. Nicolas Sarkozy è stato il primo tra i capi di Stato occidentali a premere per un intervento militare. I Mirage francesi sono stati i primi a bombardare i carri armati di Gheddafi alle porte di Bengasi. E adesso che Tripoli è caduta, il presidente francese vuole raccogliere i frutti di una posizione a suo tempo criticata perché ritenuta da molti imprudente e precipitosa, con un occhio agli interessi petroliferi di Total, ma soprattutto al recupero di popolarità di cui ha assolutamente bisogno in vista delle elezioni presidenziali di primavera. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Proprio la Francia ieri ha presentato il suo piano anti-deficit. Tra le misure ci sono una tassa del 3% sui redditi da lavoro e da capitale superiori a 500.000 euro l'anno, un aumento dei prezzi di tabacco, alcol e bevande, una modifica della tassazione sugli immobili mantenendo l'esonero per la prima casa. Il piano prevede risparmi aggiuntivi per 1 miliardo di euro nel 2011 e per 11 miliardi nel 2012. In Italia intanto si comincia a ipotizzare un ritocco all'IVA, l'imposta sui consumi, ma vediamo come funziona in Europa. Quel che è certo è che non può scendere sotto il 15 e non può essere più alta del 25%. L'imposta ordinaria sui consumi, secondo i paletti posti da Bruxelles, può oscillare fra questi due estremi ed è dentro questi confini che si possono muovere le modifiche. Al momento in Italia si paga il 20%, ma esistono due aliquote ridotte. Una al 4 per i beni di prima necessità come pane, latte, acquisto prima casa, ma anche, ad esempio, per il materiale tipografico attinente alle campagne elettorali, mentre non vengono ritenuti di prima necessità latte artificiale e pannolini per neonati. Un po' più alta, ma sempre ridotta, l'aliquota al 10%, che si applica a bar, ristoranti e alberghi, ma anche su molti prodotti alimentari come carne e ortaggi e sull'energia elettrica. In Europa ogni paese all'interno dei confini fissati da Bruxelles si muove in ordine sparso. Si va da un'aliquota al 15% in Lussemburgo al 25% applicato in Danimarca e Ungheria. Anche per per i beni e per i tabù non c'è uniformità. Ad esempio, l'abbigliamento per bambini è storicamente esente IVA in Gran Bretagna e Irlanda. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si accende una polemica di marca tedesca sulla difesa dei titoli di Stato europei, una polemica che ha sorpreso molti. Il presidente della Repubblica tedesca Christian Wulff ha criticato la politica della Banca Centrale Europea mettendo in dubbio la legalità degli acquisti di obbligazioni di singoli Stati da parte dell'istituto. Secondo Wulff, la BCE è andata oltre i limiti del proprio mandato. Il commento di Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Segnale preoccupante per molti aspetti da un punto di vista europeo, perché finora sia la signora Merkel sia il presidente Wulff avevano avuto nei confronti della Banca Centrale Europea e della politica della Banca Centrale Europea in questo delicato frangente un cauto appoggio. La stessa signora Merkel aveva dato il suo benestare ai primi acquisti di obbligazioni nel maggio del 2010. E quindi è sorprendente che il Presidente della Repubblica abbia deciso di uscire allo scoperto in questo modo, criticando questa scelta, che è una scelta peraltro molto dibattuta all'interno della Banca Centrale. Sappiamo che una frangia importante dell'establishment politico tedesco vede di cattivo occhio questa scelta della BCE. Sappiamo che le ultime scelte su questo fronte prese dalla Banca Centrale tra la fine di luglio e l'inizio di agosto sono state scelte criticate dai rappresentanti tedeschi all'interno del Consiglio direttivo. Però il fatto che il Presidente della Repubblica in un discorso lo dica così esplicitamente, provoca un riacutizzarsi delle tensioni politiche in Germania e anche nella zona euro, evidentemente. Giornata positiva per le borse in Europa, guadagna molto bene soprattutto Francoforte, più 2,69 a fine giornata, chiusure con guadagni significativi anche per Parigi, più 1,79, Londra più 1,49, a Milano Piazza Affari FTSE All Share più 1,76, FTSE MIB più 1,82. A Piazza Affari va in scena la riscoperta dell'auto e degli industriali. Almeno per una seduta gli investitori alla Borsa di Milano e sulle altre piazze europee sono tornati ad acquistare a piene mani le azioni del settore automobilistico e del manifatturiero, approfittando dei molti titoli ai minimi storici e anche dell'impulso positivo arrivato dalla crescita negli ordini di beni durevoli statunitensi. A Milano ne ha beneficiato soprattutto Fiat, che oltre a sfruttare il rimbalzo del comparto auto, più 4,5 l'indice europeo, è stata sostenuta dalla conferma degli obiettivi finanziari per fine anno arrivata dall'amministratore delegato Sergio Marchionne. E così le industrial, cioè le azioni della società che produce veicoli commerciali e mezzi agricoli, hanno guadagnato il 6,8%, agganciando quota 6 euro, mentre Fiat S.p.A., che incorpora tutte le attività automobilistiche della casa torinese, è salita del 6,6%, tornando sopra la soglia dei 4 euro per azione. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. L'Italia spicca in negativo in Europa in fatto di disoccupazione. Secondo gli ultimi dati di Confartigianato, la quota di inattivi tra i 25 e i 54 anni arriva al 23,2%, mentre la media europea si ferma al 15,2%. Il record europeo l'Italia lo raggiunge con la disoccupazione giovanile. A stare peggio i ragazzi fino a 24 anni disoccupati nel 29,6% dei casi contro il 21% della media europea. Il ministro del lavoro Sacconi al microfono di Roberta Pellegatta. Sono dati purtroppo noti da tempo e sostanzialmente stabili, che sono soprattutto determinati dall'altissimo numero di giovani che non studiano e non lavorano. La risposta a questa emergenza italiana, che trae le sue origini dal disastro educativo degli anni 70, è stata individuata soprattutto nella riforma dell'apprendistato, che ora è legge e si tratta di applicare nelle sue diverse possibilità. Ora torniamo in Francia per una notizia che arriva da Parigi. Vaste zone della capitale francese sono state colpite da un blackout che ha lasciato decine di migliaia di case senza corrente elettrica. Tutta colpa di un guasto a una radiale, un'enorme linea sotterranea da 125.000 volts, ha fatto sapere RDF. Chiudiamo con una notizia notizia che riguarda il fumo. Nelle tabaccherie europee stanno arrivando le sigarette antincendio che entro la fine dell'anno diventeranno le uniche commerciabili in tutta l'Unione Europea. Secondo i produttori hanno lo stesso gusto e aspetto di quelle tradizionali. Il meccanismo di autospegnimento viene assicurato da 3 bande trasversali posizionate sotto la cartina della sigaretta che la estinguono se questa non viene tirata. In Europa, fra il 2005 e il 2007, sono stati ben 11.000 ogni anno gli incendi provocati dalle sigarette. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un grazie in regia a Mauro De Angeli, un saluto da Paolo Piacenza. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.